prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ancora ben ritrovati da Mirko Cavallin, il nostro spazio di approfondimento insieme alla Caritas di Padova. Anche questa settimana prende spunto dal fascicolo che è stato consegnato alle comunità, ai vicariati e ai centri di ascolto in occasione dell'Avvento. C'è molto materiale che si può riutilizzare anche al di fuori, appunto, del periodo che ci ha preparato al Natale. Ad esempio segnalo diversi strumenti multimediali come canzoni che vengono citate, film o spettacoli teatrali, oltre ad una corposa bibliografia. Ci sono anche riferimenti video e anche dei siti internet a cui poter fare riferimento. Questa settimana ne stiamo già parlando in altri spazi, è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ebbene, della questione delle migrazioni si parla questo giovedì alle 18 con una conferenza che si intitola Le chiese di fronte alla sfida delle migrazioni. Ci saranno la presidente della comunità di Sant'Egidio di Padova, Alessandra Coin, Don Elia Ferro, che è responsabile della pastorale per i migranti della diocesi di Padova, e la pastora metodista Ulrike Jourdan. L'appuntamento è, come detto, questo giovedì alle ore 18 alla libreria San Paolo Gregoriana in pieno centro a Padova, letteralmente a due passi da Piazza Duomo. Un'esperienza che arriva da Este. Ottobre 2014, quindi circa un anno e mezzo, poco meno, sei giovani richiedenti asilo sono stati ospitati nella ex abitazione delle Sorelle della Misericordia nella parrocchia del Duomo, Santa Tecla di Este. Da allora per ciascuno di loro è iniziato un nuovo viaggio, un viaggio incominciato proprio a Este, mesi rimasti in ombra, mesi che senz'altro non hanno conquistato le luci della ribalta. Magari le notizie spesso legate ai migranti sono quelle più negative, quando c'è qualcuno di loro che magari delinque, commette dei reati e giustamente viene punito, viene segnalato, oppure delle persone migranti si parla quando protestano. È successo nell'Alto Vicentino, è successo anche sul litorale veneziano. Le storie però, racconta questa esperienza raccolta nel fascicolo Aprire la Misericordia della Caritas di Padova, la storia va comunque raccontata perché le storie delle persone dicono e spiegano meglio dei quotidiani e dei commenti da bar. Saddam, Murslane, Adam, Usman, Boubacar e Ali sono appunto questi i nomi dei sei giovani pieni di sogni e di speranze, spinti dal desiderio di costruirsi una vita migliore di quella che hanno lasciato, le prese con la conoscenza di un mondo, il nostro mondo, che è molto diverso dal loro. Giovani che sono stati fin da subito coinvolti su vari fronti, dall'impegno la mattina al patronato del Santissimo Redentore, nel pomeriggio con lezioni formative e cura della casa dove sono stati ospitati. Formazione proseguita per alcuni mesi, appunto da ottobre 2014 fino a giugno dello scorso anno, nel soggiorno della loro casa. Vere e proprie lezioni preparate e tenute da persone volontarie, ex professionisti in pensione, ma anche lavoratori e giovani laureati, persone straordinarie che hanno messo energia e passione nel coinvolgere i giovani profughi in questo percorso fondamentale che è la conoscenza della lingua, altrimenti risulta impossibile comunicare. Le lezioni si sono poi articolate su varie materie, ovviamente parlando ad esempio di cose che noi diamo per scontate ma non sono così normali perché viene da un'altra cultura, proprio letteralmente da un altro mondo. Ad esempio si è parlato di salute, di igiene, di educazione civica, educazione stradale, sicurezza, musica, cucina, gestione economica e anche di attualità, dando la possibilità a questi giovani di assimilare nozioni di base per integrarsi nel nostro paese. Ecco, quando si parla si usa il termine termine integrazione. Ecco, vuol dire anche queste cose molto semplici, di vita estremamente quotidiana, estremamente normale, conoscere appunto come ad esempio si paga una bolletta, come si fa, che ne so, una ricarica telefonica, piuttosto di come spedire una comunicazione o una lettera, il rapporto con il medico di base, quindi tutto il settore della salute. Poi ci sono stati anche incontri culturali, storici e artistici. È convinzione infatti dei volontari di Este che la crescita della persona ha bisogno di stimoli culturali, sociali, affettivi e morali per esplicarsi e venire fuori in tutta la sua pienezza. È stato avviato anche un laboratorio di work experience, grazie al quale da circa un mese due di questi giovani, Usman e Boubacar, stanno imparando a lavorare in legno con la supervisione di un tutor esperto. Ali ha vissuto un'esperienza in agricoltura e poi è stato coinvolto in un progetto di pubblica utilità con il comune di Este, un progetto della durata di sei mesi, un percorso di formazione che è fondamentale, appunto, dicono i volontari, che consente ai ragazzi stranieri di imparare come si lavora in Italia e rendersi utili a vantaggio della comunità che li ospita, che insegna la cultura della responsabilità e dei doveri sociali, un percorso che tornerà loro utile se decideranno di restare in Italia, ma anche se si sposteranno in Europa, dato che sostanzialmente le regole di convivenza sono le stesse. Per altri due di loro, Saddam e Muslin, dopo le difficoltà iniziali dovute proprio alla lingua, la loro grande determinazione e lo spirito di sacrificio ha permesso loro di raggiungere obiettivi importanti, come ad esempio un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Insomma, è una notizia molto importante. Come commesso nel settore abbigliamento, un'esperienza di mercato itinerante, sta anche imparando un lavoro. Giovani, appunto, che i volontari di Est hanno conosciuto, che sono cresciuti, che danno un'immagine di grande serietà e correttezza, che dimostrano che anche loro, come noi, amano il loro lavoro, quello che fanno, e portano avanti con le loro forze e la loro grinta ciò in cui credono, il sogno di tutti gli stranieri che vogliono essere regolari in Italia. Ma alla fine, come sappiamo, pochi riescono a raggiungere questo traguardo. Il loro viaggio, le loro esperienze, il modo in cui conducono la loro vita non ci lasciano indifferenti, perché sono modi, viaggi ed esperienze del tutto simili a quelle di ciascuno di noi. Accade qualcosa se leggiamo queste esperienze con occhi e cuore aperti. È il desiderio di conoscerli, incontrarli, andar loro incontro, lo stimolo a essere persone consapevoli, che entrano in profondità, che non si accontentano del sentito dire, ma che cercano l'autenticità. Ecco allora che questa è anche un'occasione, anche un invito per chiunque lo desideri, di partecipare alla fraternità, andando loro incontro, andandoli a trovare, andandoli a conoscere, andando ad incontrarli. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.